24. La storia. Tornai Puccini è uno di noi, è uno che ha vissuto insieme a noi ed è una figura familiare. È il primo a comprarsi un fonografo Edison, è il primo ad avere le macchine, diciamo, alla moda, è il primo a circondarsi di tutte le scoperte degli inizi del Novecento. Io mi occupo di Puccini da 20 anni, ma l'immagine che ho di lui cambia costantemente di anno in anno. Nonostante le numerose fonti, ancora oggi io non so dire che uomo fosse. Sicuramente era un personaggio complesso. L'uomo che ha creato l'armonia, che ha fatto cantare gli esseri umani come nessun altro, Puccini. Tutte le ragazze si innamoravano di Puccini e della sua musica. Una vita spesa a creare melodie d'amore indimenticabili e struggenti. Una musica che si nutre degli ideali del suo tempo, quelli di una gioventù che ha saputo immaginare un futuro libero all'insegna del riscatto e della dignità. Piccole anime per grandi passioni, diceva lui, ovvero storie di gente comune travolta da sentimenti e passioni eccezionali, come i protagonisti dell'impresa dei mille e dell'Unità d'Italia, ma anche come Manon Lescaut, Tosca, Madame Butterfly o la Mimì della Bohème. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di Giacomo Puccini, nato il 22 dicembre del 58, 3 anni prima dell'Unità d'Italia. Puccini lega insieme passato e futuro, l'Italia del bel canto all'Italia dell'inizio del Novecento. Collocare Puccini nel suo tempo è molto difficile. Non si può dire che sia stato un uomo del suo tempo, direi piuttosto che ha attraversato i tempi. È nato in pieno risorgimento ed è morto quando il partito fascista era già una realtà politica. Ha vissuto l'intera parabola dello Stato post-unitario. Giacomo Puccini si riesce bene a cogliere nelle lettere. Le sue lettere sono già quasi, potremmo dire, delle partiture. Lui non usa segni di punteggiatura tradizionali, usa solo dei trattini, usa gli spazi della pagina in maniera molto creativa e usa un linguaggio che spazia da quello scurrile a un linguaggio invece assolutamente raffinato. Addirittura ci sono lettere che Puccini scrive in latino, ci sono tentativi di lettere in lingue maccheroniche, ci sono lettere rebus, che possono essere decodificate soltanto se si riesce a fare un gioco enigmistico proprio, e non sempre semplice. Puccini è nato in una famiglia borghese di Lucca, città che per secoli si era mantenuta libera e autonoma. La sua famiglia, all'interno del contesto sociale e culturale, ha sempre avuto un ruolo importante. I suoi avi erano quasi tutti direttori d'orchestra e musicisti. Nel 1880 Puccini sembra destinato a diventare maestro di cappella del Duomo di Lucca, ma a 18 anni, assistendo alla Ida di Verdi, Puccini ha una folgorazione. La sua strada è sì quella della musica, ma quella del teatro musicale, insomma la strada dell'opera. La sua città allora è Milano. Gli studi al conservatorio naturalmente costano, bisogna trovare i soldi per la retta e la madre di Puccini scrive addirittura alla Casa Reale. Sarà così la regina Margherita a pagare gli studi al futuro erede di Verdi. Puccini inizia il suo percorso a Milano, al conservatorio, con Amilcare Ponchielli, che l'ha portato subito nel centro delle problematiche musicali di quel periodo. Puccini ha creato un suo percorso totalmente indipendente da quelle che erano le tendenze italiane di quegli anni. Questa indipendenza di Puccini nel panorama italiano ne ha fatto per molti anni un autore sospetto, per poi finalmente capirne la grandezza. La grandezza sta appunto nella estrema e straordinaria qualità musicale di queste opere, che sanno raccogliere in un ordito caratteristico specificamente di Puccini esperienze molto diverse, non solo di Wagner ma anche di altri autori, per esempio Debussy, Strauss, Schoenberg. L'ambiente rurale di Torre del Lago è per lui molto importante. Ci trascorreva mesi interi. All'epoca era un piccolissimo villaggio di importanza marginale e di ben poche attrattive. Ci vivevano persone umili e povere. A lui Torre del Lago dava serenità. Lì poteva vivere come una sonna normale e vi trovava riposo dopo le fatiche del lavoro. Le serate in compagnia, il bere con persone semplici, erano un aspetto fondamentale della sua vita creativa. Ecco alcuni comandamenti del circolo ricreativo di Torre del Lago, nato nel 1896 col nome dei Club La Bohème. Articolo 1. I soci del Club La Bohème giurano di bere bene e di mangiare meglio. Secondo! Secondo! Torre del Lago, insomma, come avete sentito dal musicologo Aldo Simeone, rimane e rimarrà sempre per Giacomo Puccini il luogo dell'anima. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di un compositore, Giacomo Puccini, che nel 1908 ha 50 anni e una celebrità. Ma non Lescaut, Bohème, Tosca, Madame Butterfly, lo hanno consacrato presso la critica e il pubblico non solo in Italia, ma anche in Europa e negli Stati Uniti. Nella sua vita però sta per scoppiare una crisi. La moglie Elvira infatti si convince che abbia una relazione con la cameriera Doria Manfredi. In quei mesi, come testimoniano le lettere tra i coniugi, esplodono sentimenti di odio, di gelosie e vendette in un intreccio fatale tra vita e melodramma. Da quel grande egoista e senza cuore che sei sempre stato... La storia è lunga, troppo dolorosa e non posso ora ridirla. Oggi mi si chiama in un tribunale a scolparmi di cose che non ho commesso e delle quali... Ora sto meglio, ma ho lo schifo alla gola per tanta infamia commessa. Col tuo egoismo hai distrutto una famiglia. Sì, meno superba con me e più espansiva. Ma se un Dio c'è, dovrà farti pagare quello che hai fatto soffrire a me. E l'ora del castigo suonerà anche per te. Quando scoppia lo scandalo, nell'autunno del 1908, Puccini era sposato da 2 anni con Elvira, sebbene i due fossero una coppia di fatto già da molti anni. Avevano anche 2 figli già grandi, Fosca, nata dal primo matrimonio di Elvira, e Antonio, nato da Giacomo Puccini. Es gab immer Krisen in dieser Ehe. Il loro matrimonio ha vissuto varie crisi, ma questa fu la più pesante. È probabile che vi siano state molte altre situazioni analoghe prima, e anche in questo caso Elvira credette che Puccini l'avesse tradita. Stavolta però è probabile che avesse torto. Wahrscheinlich hatte sie zum ersten Mal Unrecht. Sappiamo da poco tempo quello che è successo veramente. Si tratta di una scoperta piuttosto recente. Tutto è iniziato come una vendetta di Fosca, la figliastra di Giacomo Puccini. Lei era sposata, ma aveva un rapporto extraconiugale con un librettista di Puccini. Doria, la cameriera, trovò Fosca e il librettista insieme a letto e Fosca, per paura di essere smascherata, tentò di farla cacciare di casa, raccontando alla madre Elvira che in realtà era Doria ad essere l'amante di Puccini. Era Dieter Scheikling. L'inserviente di casa Puccini, assunta nel 1903, viene cacciata di casa. Doria è stata accusata e ha dovuto lasciare la casa senza possibilità di difendersi. Puccini si è comportato vigliaccamente perché è vero che ha scritto delle lettere in cui diceva che lei era innocente, ma poi è fuggito da Torre del Lago a Roma, lasciandola sola a se stessa. Elvira era andata in giro per tutta Torre del Lago a dire pubblicamente che Doria Manfredi aveva una relazione col suo marito e che era una puttana. Per una ragazza poco più che ventenne, venire insultata in questo modo, nel 1908, significava perdere il proprio ruolo sociale e ritrovarsi contro i suoi stessi genitori e l'intero villaggio, anche perché Puccini era il cittadino più importante di Torre del Lago. Elvira incontrò la Doria, la offese pubblicamente in strada, in presenza di altre persone. Il fratello furente scrisse a me che mi voleva ammazzare, perché ero l'amante della sua sorella, e questo l'aveva detto mia moglie. Insomma, la povera Doria aveva l'inferno in casa, il disonore fuori, e ancora le offese di Elvira nelle orecchie. Non potendo più reggere alla situazione, Doria si è procurato un veleno e si è avvelenata. In un momento di grande sconforto, ingoiò 3 pastiglie di sublimato e morì dopo 5 giorni di atroci spasmi. Figurarsi cosa successe a Torre. Nella tua coscienza, se ne hai una, deve torturarti il pensiero di sapere tua moglie oggi imputata di cose che, seppure anche commesse, nessuno meglio di te sa la vera causa da cui è stata spinta. E se è vero che tutto nel mondo si sconta, tu lo sconterai. Avete sentito la corrispondenza tra Puccini e la moglie? In realtà, nella vita di Puccini, il dato aneddotico conta poco o nulla. Dalla prima opera, Le Villi, fino all'ultimo lavoro rimasto incompiuto, La Turandot. Puccini, infatti, è un grande conoscitore dell'animo femminile, l'artista che meglio di chiunque altro ha messo in scena, nei suoi melodrammi, le passioni, la forza dirompente dell'amore di una donna. I suoi spartiti raccolgono una galleria di eroine struggenti e focose, controverse e chiacchierate, ma tutte indimenticabili. Ascoltiamo Franco Zeffirelli e il soprano Renata Scotto. Bravo, Puccini è la donna gelosa, innamorata, che offre la propria vita per l'amore. Io li ho adorati tutti, ho dovuto veramente entrare lentamente, conoscendo Puccini, ho dovuto veramente studiare e capire non solo lui come compositore, la parte vocale, ma capire anche dove arrivavano i suoi personaggi. You all see that when you did it 5 years ago, it only came up to here. Yes. You had 5 inches less. You had 5 inches less. My God, it's very difficult. You know, I remember 5 years ago. L'opera lirica in un atto, Suor Angelica, è tra le poche opere a contenere solo personaggi femminili. Ce ne parla il soprano Renata Scotto. Angelica commette l'errore di innamorarsi di un giovane, rimanere incinta e avere un figlio. Questo per la famiglia significava la clausura. È drammaticissimo il momento quando Angelica dice: come dopo 7 anni venite a trovarmi e non parlate della cosa che mi appartiene, non dite una parola del figlio. Naturalmente quella parola è: il figlio è morto. E Angelica a questo punto va in un altro mondo, parla col figlio, e questo è delirio. Il punto più bello è per il pubblico immaginare il bambino. Io non posso vedere oggi produzioni di Angelica dove il bambino viene in scena, perché il bambino è negli occhi di Angelica. Il pubblico lo deve vedere attraverso il canto di Angelica. Tutti i personaggi femminili hanno un momento di visione. Per esempio, un momento di visione è quando Manon, finalmente in questa casa ricca, con tutti gli agi, però con un vecchio amante che dà tutte le possibilità ma non dà la cosa necessaria a Manon, che è l'amore. Senza il suo De Grieux non può vivere, ma non capisce che è la fine, e quindi canta quest'aria con tanta disperazione. E io che pensavo nel camminare lontana, arrivando in questa terra sconosciuta che è la Louisiana, pensavo di trovare una terra nuova, pensavo di ritrovare la mia vita vicino a De Grieux, e invece sento che si avvicina qualcosa di terribile, e dice: non voglio morire. In fondo è un free spirit, come possiamo dire, è la libertà della gioia di vivere, cresce libera, povera, e sa ricamare molto bene. Musetta sa cantare. Non vive l'amore lungo, vive l'amore al momento, con Marcello. Poi litigano e dice: senti, tu vai per la tua strada, io vado per la mia. Ma dopodomani si incontrano e si ritrovano e fanno l'amore ancora. E si amano terribilmente, uno non può fare meno dell'altro. Mimì è romantica, Mimì è la ricamatrice che si innamora di Rodolfo prima ancora di conoscerlo, perché lo intravede e poi bussa alla porta. Infatti è lei che bussa. Per farsi accendere la candela, che forse non era nemmeno spenta, l'aveva spenta lei. Mimì dice: ma io sono felice solo quando viene la primavera. perché io sono malata, non lo dice, però lei soffre il freddo anche perché purtroppo ha la tisi, ma noi non lo sappiamo ancora. Comunque, la primavera mi porta il sole, mi porta il calore e col calore io mi sento felice. La storia. Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Puccini. I protagonisti delle sue opere sono spesso eroine straordinarie che mettono in scena un nuovo tipo di donna come non si era mai visto nelle opere di Verdi e Donizetti. Le sue architetture musicali e le sue orchestrazioni, l'uso dei singoli strumenti inseguono una modernità che non fa più parte del melodramma classico e che si è in un certo senso diventato cinema. E infatti, tra la musica di Puccini e la nuova arte per le grandi masse c'è da subito un legame fortissimo, ma tutto da scoprire, come spiega lo storico Piermarco De Santo. Puccini è stato un anticipatore di quello che poi il cinema è andato facendo, in particolare nei primissimi anni del sonoro. Basti pensare che il primo film sonoro italiano, 1930, La canzone dell'amore, conteneva la musica di Puccini. E si assiste ad un fenomeno durante il periodo del muto straordinario, cioè l'arrangiamento delle musiche di Puccini. Già in questa fase diventano colonna sonora. Il rapporto tra il personaggio in scena e il fuoriscena, cioè il fuoricampo. Questo è addirittura citato, se vogliamo, sia pure in maniera molto camuffata, in Roma città aperta ai Rossellini. Guarda, prete, guarda, sei soddisfatto? Questa è la tua carità cristiana. È il compositore che il cinema ha più saccheggiato. Puccini sbarca a New York, lo attende il Metropolitan con la prima mondiale della Fanciulla del West. È il 21 febbraio del 1907, dai microfoni della Columbia Phonography Company un Puccini emozionato parla così. Sono veramente grato al gran pubblico di New York per le accoglienze tanto entusiastiche che ha fatto alle mie opere. Accetto l'augurio del buon viaggio e finisco gridando America Forever! America war natürlich zu dieser Zeit. Gli Stati Uniti nel 1910 erano una sorta di dépendance dell'Italia. Basti pensare che soltanto da Lucca un terzo della popolazione era emigrata in America già sul finire dell'Ottocento. Stiamo parlando di cifre considerevoli. La fanciulla del... Con la fanciulla del West inizia la tarda opera di Puccini. Quelle dell'ultimo periodo sono opere che non convincono il pubblico. Puccini abbandona lo stile operistico allora conosciuto, ovvero il cosiddetto bel canto. Lui andò in America, fece questo viaggio e nelle sue lettere scrisse di aver ascoltato degli ottoni fantastici. Ci sta per esempio nel primo atto della fanciulla un tema che, se noi non sapessimo che è di Puccini, potrebbe veramente appartenere a un ragtime di Scott Joplin. Sempre nel primo atto della fanciulla, al ragtime si mischia il jazz nei suoi albori, in quindi quello stile che credo sia chiamato Dixieland. La fanciulla del West è l'orchestra ad assumere il ruolo di vera forza narrante anche a discapito dei personaggi. Non è solo un alzare di sipario di un dramma, ma un alzare di sipario di un nuovo orizzonte musicale. Puccini ha anche introdotto in orchestra strumenti davvero inusuali. L'arpa con strisce di carta sulle corde, nella fanciulla del West, per riprodurre il suono del banjo, oppure l'arpa a vento della Butterfly, o le campane in Tosca. L'ambientazione musicale è per lui fondamentale. È evidente come maestro si recasse sui luoghi, accompagnato spesso da fotografi, per trarre documentazione. Lo fece tantissimo anche per le sue trame esotiche. Ad esempio, per la Madama Butterfly, Puccini entrò in contatto con un'attrice giapponese che gli promise di procurargli alcune musiche popolari giapponesi, e addirittura lui si interessò quasi di più alla pronuncia del giapponese originale, lasciando parlare l'attrice per sentire il cicaleccio delle voci femminili. Nel momento di musicare, poi, spesso Puccini richiedeva enormi interventi di modifica al librettista, o perché aveva cambiato opinione, o perché aveva bisogno di determinati ritmi. E allora scrive cose buffissime ai propri librettisti, del tipo cocoricò, cocoricò, bistecca, per far intendere un ritmo che poi diventerà quando men vo soletta. Puccini voleva fossero un'equipe, difficilmente affidava un soggetto a una sola persona. Attraverso le parole di uno dei protagonisti riusciamo a intendere quali sono le difficoltà che Illica non nega. Quelle sedute nostre, vere lotte dove venivano tagliati a pezzi lì per lì interi atti, e rovinato così in un minuto il lungo e penoso lavoro di mesi. In quattro, perché Giulio Ricordi, che quelle sedute doveva dirigere, abbandonava sempre la poltrona della presidenza per scendere nell'emiciclo. 2 metri stretti stretti che la persona poderosa di Giacosa rendeva più angusti, difficili, faticosi. Giacosa era per noi l'equilibrio, nei momenti bui era il sole. Puccini, dopo ogni seduta, doveva correre dal manicure per rifarsi le unghie, se le mangiava via tutte, fino all'osso. Il rapporto con Giulio Ricordi è come tra padre e figlio. Giulio Ricordi è l'editore italiano per antonomasia, è l'amico di Giuseppe Verdi, è lui a definire Puccini il successore di Verdi, ed è lui che ha lavorato perché questa definizione diventasse una realtà. Ricordi è il primo e più spietato critico delle opere di Puccini. Il suo giudizio è sempre molto importante, come quello di un padre che dice: figliolo, hai fatto un buon lavoro. Cosa ha fatto oggi? Cosa ho fatto? Ho fatto la conserva di fragole, ho messo sotto spirito 4 kg di ciliegie, tutto nella giornata, 4 kg. Mi prende anche in giro? No, parola, questa notte lavoro. Nell'ultima parte della sua vita, Puccini cerca nuove vie. Sono gli anni della collaborazione con D'Annunzio. Aldo Simeone, musicologo. D'Annunzio era convinto sostenitore di un teatro diverso da quello pucciniano, un teatro fondamentalmente intellettuale, e la passione che Puccini ricerca nei soggetti diventa, nelle parole di D'Annunzio, fuoco. E non è esattamente la stessa cosa. Puccini voleva piccole anime e grandi passioni. Voleva una poesia assolutamente domestica, fatta delle semplici cose. L'annunzio, sentilo qua, spero che non sarà difficile ai due amici, che siamo io e lui, capito? A pagare con equità e con nobiltà la collaborazione del poeta e del musico, che siamo sempre io e lui. Intanto io cerco di ridurre le mie immaginazioni con una M sola che fa più morboso, come le labbra, la febbre. L'Albo Nazionale degli Autotrasportatori vi presenta Strade in diretta. 2 chilometri di coda dopo un incidente sull'autostrada in direzione di Roma tra Valdarno ed Arezzo. C'è coda anche sulla tangenziale di Catania per un incidente tra San Giorgio e Mister Bianco verso Messina. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, qui c'è coda per lavori tra Firenze-Scandicci e la Strasigna in direzione Livorno. Per lavori rallentamenti e code di 3 chilometri sulla tangenziale nord di Torino tra l'interconnessione con la tangenziale sud e Pianezza in direzione della 4 Torino-Milano. Mentre sulla tangenziale sud si è formata coda per un incidente tra l'interscambio Drosso e lo svincolo percorso alla mano in direzione della tangenziale nord. Traffico a rilento sulla 3 Salerno-Reggio Calabria per lavori tra Gallico e Porto di Reggio Calabria in direzione Reggio. Infine segnaliamo rallentamenti sulla statale 18 Tirrena inferiore per un incidente tra Mileto e Vibo Valentia in direzione Cosenza. E tutto, strade di nuovo in diretta tra un'ora. Mix 24, la storia. Cara Sibyl, questa guerra è troppo orribile. E le vite umane, vittoria o disfatta, sono sacrificate. Quando finirà? È una sospensione di vita. Il lavoro è una grande consolazione. Ma se non finisce questa guerra, cosa ne farà il mondo della musica? Rieccoci a Mix24. A 60 anni Puccini comincia a sentirsi vecchio e a odiarsi per questo. Pensa addirittura alle rivoluzionarie tecniche di ringiovanimento di quei tempi, ad esempio farsi impiantare delle ghiandole di scimmia. Ma soprattutto, con la Prima Guerra Mondiale, Puccini è un artista costretto a restare inattivo. I teatri sono chiusi, i viaggi sono impossibili e per giunta sono morti i suoi librettisti abituali, i suoi collaboratori fedeli. È come il presagio dell'ultimo sipario. Il dado è tratto, gettato il dado sulla rossa tavola della guerra. Italiani, antitedeschi, filotedeschi, neutrali, perché se la prendono con me. Per esempio. D'annunzio vuoi la guerra? E mi sembrano tutti matti. E non ci sarebbe da meravigliarsi se entrassimo in guerra anche noi. È quasi sicuro ormai. Puccini ha sempre odiato la guerra. Per lui è stato un avvenimento terribile, il peggiore. La odiava anche perché la gente non andava più a teatro e questo lo obbligava all'inattività. Negli anni della guerra, Puccini si ritira a Torre del Lago perché non può nemmeno viaggiare e andare in Austria e Germania come vorrebbe, visto che sta componendo un'operetta, La Rondine, in stile viennese. Tenterà anche di scrivere una commedia, Gianni Schicchi, ma è un'opera tutt'altro che comica. È un'opera amara, vi sono rappresentati tutti gli aspetti del male, come nel trittico, e non a caso lo scrive proprio durante la guerra. Negli anni aumenta la sensazione di Puccini di essere sempre meno al passo coi tempi e di conseguenza aumenta anche la frustrazione per non essere più, per non sapere più esprimere le esigenze musicali della sua epoca. È consapevole che ha sempre da parte sua il pubblico, ma si rende conto che la critica si sta spostando. Per lui vecchiaia significa essere diventato quello che Verdi era diventato quando venne Puccini, e sottolinea il fatto che Zandonai è ritenuto il suo successore, che è esattamente il termine, l'appellativo che diedero a Puccini rispetto a Verdi, il successore di Verdi. Puccini ha sempre tenuto una certa distanza dal fascismo come movimento politico, perché lo considerava patetico. Aveva solo una speranza, l'auspicio che Mussolini riportasse l'ordine in un'Italia con grosse difficoltà economiche e sociali. Sappiamo invece che Puccini voleva diventare senatore del regno e poteva farlo solo con l'aiuto del duce, come di fatto è accaduto. Due mesi prima della sua morte, Puccini viene nominato senatore, ma il suo unico pensiero è la Turandot. Il suo unico pensiero in questo momento è Turandot, l'opera che più di ogni altra rappresenta per lui uno sforzo immane. Un'opera carica di angoscia, di brusche interruzioni, di ripensamenti. Ci sono parti in cui manca totalmente la musica, altre invece in cui inizia la strumentazione senza il testo, cosa mai successa prima. Sebbene non fosse terminata, la manda comunque all'editore, perché sa che non la completerà mai. Non può completarla. La sua ricerca musicale si è spinta troppo oltre. Negli ultimi mesi della sua vita, Puccini soffre di insistenti dolori al collo. Gli viene diagnosticato un tumore alla laringe, ma all'epoca le cure per questo male erano soltanto agli inizi. C'era una terapia alle radiazioni che si faceva solo in due cliniche in tutta Europa. Una è a Bruxelles. Puccini ci va, gli viene fatto un taglio alla laringe e gli mettono dei chiodi radioattivi per distruggere le cellule. È un intervento molto duro e faticoso per l'organismo. 16 novembre 1924, poco tempo prima della sua morte, Puccini scrive: e che l'amore, alla fine, invada tutti sulla scena, in una perorazione orchestrale. Il cuore di Puccini si ferma il 29 novembre 1924. Sarà Toscanini a presentare alla Scala di Milano la sua ultima opera incompiuta. Qui l'opera finisce per la morte dell'autore. Simonetta Puccini, cosa vuol dire essere la nipote di Giacomo Puccini? Beh, mi ritengo molto fortunata e privilegiata. È un privilegio che molto ha anche delle parti negative, diciamo. Quali? Beh, le grandi responsabilità, le grandi decisioni su come deve essere usato il nome di mio nonno, il nome e l'immagine. E questo è un problema che ho sempre. Qual è la cosa più difficile che incontra? Beh, direi proprio questo, intervenire sull'uso del nome e dell'immagine, perché... Cosa bisogna assolutamente ricordare di suo nonno? Beh, la sua musica e anche la sua figura, la sua vita com'era, perché ci sono purtroppo molte fantasie. Mio nonno è tanto amato e quindi c'è chi ama creare anche delle situazioni. La sua vita intima riguarda lui e quindi bisogna rispettarla, bisogna far conoscere Puccini com'era, che è stato un grande benefattore dell'umanità. Come nasce il Festival Puccini di Torre del Lago? Beh, nasce parecchi anni fa, ci sono a Torre del Lago. C'era un gruppo di amatori di Puccini e della sua musica che hanno desiderato creare questo festival. Io mi occupo della Villa Museo Puccini di Torre del Lago, della sua memoria e dei contatti col pubblico, non chiamiamolo pubblico, di tutti quelli che amano Puccini, che vengono numerosissimi a visitare la sua casa e la sua tomba. E della villa cosa bisogna assolutamente non perdere? Beh, la villa è la sua casa, che lui ha tanto amato, e poi in questa casa è nata la sua musica, la maggior parte della sua musica, quindi... è un dovere conservarlo. Questa casa è una casa, non ha niente di eccezionale, ma quello che è eccezionale è l'atmosfera, cioè è come se lui fosse ancora presente, e questo lo dicono tutti, non sono io che lo dico. In questa casa aleggia il suo spirito, è come se si sentisse il fumo della sua sigaretta o se lo si vedesse uscire da una porta all'improvviso. Questo è molto. Qual è il valore contemporaneo dell'opera lirica, in questo caso quella di Puccini? Amava le nuove scoperte della tecnica, però tutto in funzione della sua musica, direi che era completamente, la sua vita era completamente legata alla sua musica, anche se apparentemente si comportava come una persona normale, non posava assolutamente a genio. Dentro di lui c'era questo continuo lavoro di creazione, è un mistero questo della creazione artistica. Grazie Simonetta Puccini. Grazie a lei, buongiorno. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. Mix 24.